strano vagare nella nebbia, solo e ogni cespuglio è pietra, nessun albero vede l'altro, ognuno è solo. Pieno di amici mi era il mondo, quando la mia vita era ancora luminosa. Adesso che la nebbia cala, nessuno si vede più. Veramente non è saggio chiunque non conosca il buio, che piano ed inesorabilmente da tutti lo separa. Strano vagare nella nebbia. Vivere è solitudine. Nessuno conosce l'altro. Ognuno è solo. Buonanotte a tutti. Qui è Nicole e voi siete su Radio Oro di Notte. Questa era una poesia di Herman Hesse, si intitola Nella nebbia. Beh, i miei pensieri notturni, a quanto pare. Queste parole di Herman Hesse raccontano bene cos'è per me la notte, in questo periodo almeno. È una coltre di nebbia, una dimensione buia che separa la vita in due parti, i pensieri, i desideri, che separa in due il mio stesso essere. E quando si vaga nella notte, in questa foschia densa, quando si vaga a tentoni, poco importa che realmente il sole sia dall'altra parte del mondo, o proprio sopra la nostra testa. Da qui non si vede niente, solo tante ombre minacciose e solitarie che vagheggiano in cammino incerto. Per me la notte non è solo sentirsi lontana dalla luce dei legami, dagli amici, dalla famiglia. La notte è anche un'enorme culla, certo non sempre calda e accogliente, ma una carezza per la riflessione, per il vagheggio, per la poesia. In fondo un giorno porta a termine con sé mille motivi per rimanere da soli a pensare. Ed io, cari Robertini, non lo so cosa penso. A volte semplicemente rivedo alcuni momenti e li archivio nella cartella Enormi dubbi e mi ci siedo sopra. La lascio là, in attesa. Dovrei assumere una segretaria per i mille cassetti mentali dimenticati, che mi ricordi di argomenti abbandonati, di dolori non superati, anche dei momenti felici che ogni tanto vale la pena rivivere, per il bene dell'anima almeno, una volta ogni tanto. Di sicuro anche voi vi ritroverete da soli, a pensare, nella vostra notte. E la vostra notte com'è? Posso immaginare quante notti ci possono essere in questo istante, mentre mi ascoltate. Le notti silenziose in riva al mare, su un prato montano, irrorate di stelle e abbracciate da piccoli sospiri. Le notti dinamiche e cordiali, quelle che non vogliono fermarsi mai, quelle illuminate al neon e decorate da piccoli ombrellini di carta colorata e cubetti di ghiaccio. Le notti familiari, le notti del plaid sulle gambe e del televisore acceso. E poi sono anche le notti eterne, le notti violente, le notti in un tunnel, le notti insonni, le prime notti. Beh, la mia notte invece è alta 4 piani e si affaccia su una piazza rettangolare vagamente illuminata, e non è silenziosa. C'è ancora vita, mentre i locali chiudono e le saracinesche si abbassano. La gente sale in macchina, altri continuano a chiacchierare all'angolo della strada. Le moto ripartono con i loro caschi colorati e i due amanti si abbracciano sulla panchina di pietra, sotto al pino. Quanti discorsi ci sono da fare sulla notte, quante sfumature possiamo cogliere, quanti stati d'animo ci ispira, che ricordi porta con sé, che profumi possiamo sentire nella notte, quanti cieli stellati di rame, impenetrabilmente neri. Perdere la lucidità, perdere la quadratezza della mente, non riuscire a riprendere i limiti, rincorrere in cerchio le parole. E anche questo chiamo della notte. L'altro giorno Pensavo nel gusto indefinibile della non sobrietà. Ecco sì, dopo un mojito di quelli fatti in casa, mi sento la testa leggera e niente di cui aver bisogno. Forse una sigaretta, ma stavolta per chiudere in bellezza una notte giovane, che per me ha già voglia di finire. Niente che mi dia fastidio, niente che odi, niente che ami appunto da star male. In pigiama sul balcone, solo il vento fresco. Le piante che mi punzecchiano le gambe e le braccia. Alcune luci dalle case di fronte che si stanno per abbassare. Tutto si distanzia nella maniera di essere visto, nelle misure che di solito non colgo. Niente che non sia giusto. Ti voglio bene. E tu? Fa male ricordare a mente lucida. Era, non è più. Era, e perché, non può essere ancora. Era, e basta. Era, e stride. Era, e adesso. Silenzio. Ma ora sono solo ricordi. Conserviamoli per i momenti come questi, quando dopo un mojito di quelli fatti in casa mi sento la testa leggera e niente di cui aver bisogno. Forse una sigaretta, ma stavolta per chiudere in bellezza una notte giovane che per me ha già voglia di finire. Niente che mi dia fastidio, niente che odi, niente che ami al punto da star male. In pigiama sul balcone, solo il vento fresco, le piante che mi punzecchiano le gambe e le braccia, alcune luci dalle case di fronte che si stanno per abbassare. Tutto si distanzia nella maniera di essere visto, nelle misure che di solito non colgo. Niente. Niente. Niente che non sia giusto. Ma non ero lucida. No, non lo ero. E adesso, questa notte, proprio adesso, di cose giuste, io non ne vedo. Sto sul mio balcone. Se qualcuno ha mai letto quei pochi post ci sono sul mio blog, può notare come siano frequenti i momenti che passo sul balcone di sera. Beh, dall'alto, vedere tutte le cose con distanza, piccole, insignificanti, e noi magnificenti, imperdi nella nostra solitudine, misurando con amarezza, noncuranza. Ma presto non avrò più un balcone, un'altra casa. Chissà, forse riuscirò a trovare un modo per vedere le stelle indisturbata, solo col rivolo della mia sigaretta. Chissà, sul tetto, o su una panchina al parco, su un tappeto volante, o dal finestrino di una macchina che viaggia su un fiume nero con destinazione ignota. Questo era il mio intro. Il resto lo lascio comporre a voi. Vorrei solo, visto che stiamo parlando di notte, fare un sincero saluto agli amanti. Perché quale posto migliore delle braccia della notte può comprendere l'essere amanti? Chi conforta gli amanti? Chi li culla? Chi li accoglie? Chi li nasconde e poi li svela? Ciao, amanti della notte. Ciao, gente della notte. Vi lascio nel bel mezzo della mia notte. Qui era Nicole, e questa canzone è solo per voi. A presto. Take me now, baby. is hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Perché la notte appartiene a coloro che si amano, perché la notte appartiene a noi. Un piccolo fremito forse ci sta attraversando la schiena, perché sappiamo esattamente di cosa sta parlando Patti Smith, e molti di noi sanno esattamente cosa vuol dire scambiarsi l'anima e la carne dal tramonto all'alba. Ringraziamo la nostra speaker Nicole per averci regalato questa canzone in chiusura del suo lungo pensiero notturno. La notte però, ragazzi, secondo me rende speciali anche quegli incontri che nulla hanno a che vedere con devastanti passioni. Capita che ti trovi a parlare con una persona e fai le ore piccole, così, perché capisci che quello è il momento giusto, che quella è la persona giusta, e tu sei dell'umore giusto per farlo. Il bello delle regole è che si possono trasgredire, diceva il giovane uomo, sorseggiando la sua birra ad altissimo tasso alcolico. Lei, meno impetuosa, decise di aspettare qualche istante prima di rispondere, senza però prendere in considerazione che il suo volto stava già tradendo chiaramente il suo umore. L'espressione che ne uscì, infatti, fu di biasimo misto a dubbio. Finalmente hai tirato fuori la tua frase d'effetto, vero? E lui, così leggero e pur così attento, la colse come fosse un urlo. Non sei convinta, eh? E mentre lo diceva, un sorriso complice, come dire, dai, parliamone, mi piacerebbe sapere cosa c'è dietro quello sguardo. lo rese meno arrogante agli occhi di lei, che decise di giocare quella partita. Forse questo giovane uomo che mi sta davanti non è poi così leggero. Talvolta capita di sentirsi al posto giusto nel momento giusto, e soprattutto che la compagnia sia la più appropriata per condividere un po' di se stessi. Quando ci si trova in una situazione così, improvvisamente il tempo si svuota del suo stesso significato e lo spazio intorno diventa semplice dettaglio. Ci sei dentro in quella situazione e ci rimarresti per molte, molte ore a venire, poiché tutto il resto è già passato in secondo piano. Oh, beve la sua birra fresca mentre distrattamente sbrigava il suo compito di cameriera. Si erano ormai addentrati in un discorso dei confini incerti, in un incalzante alternarsi di punti di vista. Due birre, due mondi a confronto e due sorrisi sornioni che sfioravano le loro labbra. Dai, è innegabile che io e te abbiamo qualcosa che ci accomuna, prima di tutto dal punto di vista biologico, ribatteva la giovane donna, perché il suo interlocutore si era avventurato in eclatanti esclamazioni sulla presunta diversità di ogni essere umano. E poi i bisogni. Che motivo c'è di spiegare l'esistenza di un bisogno? Chiedeva lui. Lei ribatteva decisa, tra un caffè ed un vassoio ai tavoli, ma con quella voce dolce e delicata come un soffio. E allora spiega un po', si può sapere cos'è per te? Un vuoto? Fresca la birra, direi, la seconda per esattezza. La cascata di pensieri associativi li investiva con irruenza, tanto da non riuscire più a ricordare qual era il punto di partenza di quella discussione. Capita, l'ho già detto, che ci si senta al posto giusto, con la persona giusta, e diventa del tutto naturale lasciarsi sedurre dalla tentazione di essere liberi. Realmente liberi. Il bancone del bar e forse mille altre cose li divideva, ma in realtà sembrava scomparso, esattamente come le voci dei clienti petulanti e chiassosi intorno. Lui parlava di crescita. Sai, quando lavori su certe cose devi in qualche modo individuare i tuoi blocchi per liberartene. E mentre glielo diceva sussurrava a se stesso: ma di che diavolo sto parlando se sono il primo ad avere blocchi di tutti i tipi? Lei scosse la testa, riteneva troppo complesso quel processo di sblocco, e in un momento di autentica sincerità gli disse con voce tremante: ma perché siamo così complicati? Lui avrebbe voluto rispondere, ma non aveva parole a questa domanda. Come sei bella sarebbe stata un'esclamazione priva di significato e di attinenza al discorso, ma di certo quelle erano le tre parole più vicine in assoluto ad un pensiero fugace che chiaramente decise di strozzare sul nascere. Wow. La terza birra fu per lei quella del cambiamento. I movimenti si fecero più armonici e lenti e la sua fisicità più disinvolta. Seduta direttamente sul bancone, continuava a proporgli domande e nuove soluzioni. Punti di vista, li chiamava lui, a dilemmi della mezzanotte inoltrata. Ignara la giovane donna dell'ego straripante di lui, che si nutriva proprio dell'interesse degli altri alla sua persona. I bisogni, dunque, cosa sono? Era passata prima da 20 minuti ed il locale dovette chiudere. Il padrone del bar però tirò fuori tre piccoli robusti bicchierini di vetro e fu tequila boom boom. La vide leggermente alterata dall'alcol, stanca dal lavoro e dallo studio, mentre si avvicinava alla sua macchina. Non dovrebbe guidare così stanca e brilla. Beh, nemmeno io dovrei tornare in bicicletta sotto questo temporale. Sorrise sotto la pioggia fredda. Il bello delle regole, del resto, è che si possono trasgredire. My love. was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found abbiamo ascoltato At Last nella sublime interpretazione di Céline Dion. Bene, miei piccoli spiriti della notte, come vi siete accorti, i nostri pensieri corrono ed è un po' difficile inseguirli, cercare di dare anche una strada a questi pensieri notturni, ma forse è meglio così, tutto sommato, fare degli schemi o creare delle strade, delle staccionate, penso sia la cosa più sbagliata in una radio, una versione notturna di una radio come questa. Ci sono pensieri associativi che vengono praticamente a cascata, per cui se io già penso radio, automaticamente penso notte, notte, strada, strada, macchina, macchina, viaggi, viaggi, aria fresca, libertà, sdraiarmi su un prato e restare con le braccia aperte a guardare il cielo. Voi l'avete mai fatto? Io l'ho fatto sul serio, ma non per dire adesso una cosa così, l'ho fatto davvero ed è una sensazione che ho immagazzinato dentro di me. L'ho fatto quando ero a Lampedusa, dove sdraiato guardavo un cielo di un blu indescrivibile. Mi ricordo che feci tante fotografie di quella vacanza e quando le rivedo mi rendo conto che sono stato fortunato, praticamente ho visitato un angolo di paradiso terrestre. E quindi i pensieri associativi corrono, Lampedusa vuol dire anche aria calda in faccia, vuol dire fichi d'India, vuol dire mangiare il couscous alla cernia, così come lo faceva mia nonna. Ecco, mia nonna, Trapani, la città di mare, il porto di Trapani, il pesce di Trapani, le navi. Io viaggerei praticamente sempre con la mia mente, però in questo momento voglio anche ricordarmi di voi, quindi devo in qualche modo lasciarvi anche dei recapiti, ecco, degli indirizzi dove potrete leggere i pensieri sparsi degli speaker di questa radio libera. Potrete leggere le cose scritte da Nicole nel suo blog, che trovate all'indirizzo dopo la sigaretta ci sta .blogspot.com. Lo ripeto, dopo la sigaretta ci sta .blogspot.com. Potete trovare le cose scritte da me al mio indirizzo liberopensieroberto.blogspot.com. Potete anche iscrivermi, se volete, a liberopensieroberto@libero.it. Mi raccomando, ascoltate anche gli amici di Radio Pazza su radiopazza.blogspot.com. Bene, spiriti della notte, credo che sia arrivato il momento di salutarci. Questa puntata è durata forse qualche minuto meno delle altre, ma credo che vada bene così. Vi auguro una buona notte e vi auguro di restare a braccia aperte nel vostro letto e guardare un cielo blu anche nella vostra stanza.